Buon pomeriggio cari amici e cari amiche di Radio Città Fucico. Questo pomeriggio vi proponiamo una nuova intervista. Io sono Mauro, l'intervista l'ha fatta Erika, quindi la mia voce la sentirete solamente durante l'introduzione e spero sia una cosa positiva per tutti voi. Oggi abbiamo intervistato un cantautore e musicista romano che si chiama Lucio Leoni, perché il 22 aprile è uscito il videoclip, nonché il singolo, Il Sorpasso, che anticipa l'uscita di Dove sei parte 1, album di inediti, che uscirà l'8 maggio, nonché primo capitolo di una biologia, non so se si dice così, comunque un doppio album, il secondo uscirà presumibilmente in autunno. Qualche parola veloce su Lucio Leoni. Chi è Lucio Leoni? Ecco, non lo conoscevamo molto bene nemmeno noi prima di ascoltare i suoi pezzi, ma dobbiamo ammettere che ci è piaciuto molto perché ha dei pezzi molto interessanti, con dei testi vivi, si può dire testi vivi, secondo me ha dei testi molto vivi. Lucio Leoni nasce a Roma nel 1981, prova un po' con la chitarra classica, poi a un certo punto decide di diventare calciatore, ma non funziona granché, quindi si torna indietro e torna alla musica, il che è una buona cosa per noi, ma presumibilmente anche per lui, perché se nel calcio non è riuscito a sfondare, nella musica sta avendo delle discrete soddisfazioni. Oltre a essere un musicista, essere appassionato sia di chitarra, di rock, ma anche di musica elettronica, ha anche un suo studio, il Monkey Studio, in cui incontra e gestisce alcuni artisti che poi magari ci racconterà un pochino di più lui stesso durante l'intervista. Adesso, prima di lasciarvi all'intervista che Erika ha fatto a Lucio Leoni, vi faccio ascoltare uno dei tre singoli che ha anticipato l'album, che si intitola Mi dai dei soldi. Per piacere mi aiuti, mi dai dei soldi. Non lo vedi come sono, come sono ridotto, le mie mutilazioni, le vedi, ti fanno pena, mi dai dei soldi. Lo sai che dietro ogni cicatrice c'è una storia, se ti racconto la mia storia mi dai dei soldi. Vedi la mia gamba, pensi che sia una storia che non ti riguarda, lo sai che le mine antiuomo le fabbricano in Italia, ora ti riguarda, ti senti in colpa, mi dai dei soldi. E se ti dicessi che la storia è un'altra e che mi sono mutilato da solo per avere i tuoi soldi, ti farei meno pena, non dovrei fartene anche di più, mi dai dei soldi. Ti piacciono le mie mutilazioni, vuoi vederle, vuoi toccarle con mano, e se ti dicessi che questa gamba è finta, che questo corpo non è il mio corpo, che questo dolore non è il mio dolore, se ti dicessi che io non ho corpo, non ho volto e non ho dolore. Sai che anche questa voce non è la mia voce. Chi sono io? Chi sta dicendo io? Quando io dico io, mi dai dei soldi perché il messaggio è complesso. Sai che non ti sto guardando per davvero. Ti piace guardarmi senza che io ti possa vedere. Mi dai dei soldi perché ho gli occhi di vetro. Ti commuovo nonostante tu sappia che sono finto. Ti commuovo perché sembro vero. Ti commuovo perché sono finto. Hai dei sensi di colpa. La cultura deve provocare sensi di colpa. Se ti faccio venire dei sensi di colpa, mi dai dei soldi. Cosa vuoi che faccia per te? Ti piacciono le barzellette? Il cieco dice allo storpio, come va? Lo storpio al cieco, come vedi? Mi dai dei soldi perché farei qualunque cosa per avere i tuoi soldi. Cos'altro vuoi che faccia? Senti qua, pane ai circensi. Ti piacciono le citazioni, i giochi di parole? Questa la conosci, l'hai capita. Ti piace pensare di averla capita? Solo tu mi dai dei soldi perché ti faccio sentire più intelligente degli altri. Oppure fingi e ridi per non sentirti inadeguato. Mi dai dei soldi perché comunque ci stiamo facendo quattro risate. Pensi che quello che stai ascoltando sia musica? Pensi che quello che stai vedendo sia teatro? Pensi che sia arte? Pensi che sia cultura? Pensi che sia accattonaggio? C'è differenza? Qual è il confine? Ci deve essere un confine. Lo sai che l'arte deve porre domande e non dare risposte. Vuoi rispondere alle mie domande o preferisci darmi dei soldi? L'arte deve farti pensare, deve pensare al tuo posto, deve emozionarti, deve divertirti, deve provocarti. Vuoi essere provocato? E se hai l'aspettativa di essere provocato, come posso davvero provocarti? A disagio con tutte queste domande, l'arte deve mettere a disagio. Sei contento di essere a disagio? Mi dai dei soldi? Avresti il coraggio di fare quello che sto facendo io? Pensi che io sia disperato? Oppure pensi che io sia libero? Mi dai dei soldi perché sono libero? Pensi che coi soldi puoi acquistare la mia libertà? O pensi che io non sia abbastanza libero? Mi dai dei soldi per liberarmi? L'arte è accattonaggio. L'accattonaggio è una forma d'arte. L'arte è morta, l'arte è viva e noi siamo morti. A che gioco stiamo giocando? Mi dai dei soldi perché nonostante tutto, comunque, ormai vecchi, forse morti da sempre, comunque, nonostante tutto, ormai vecchi, forse già morti, forse morti da sempre, comunque, stiamo giocando. Nonostante tutto, stiamo giocando. In attesa dell'uscita del disco di Lucio, abbiamo deciso di fare un paio di chiacchiere con lui. Il disco uscirà l'8 maggio, il giorno della festa della mamma, insomma un'ottima data se vogliamo regalare alle mamme questo album. E Lucio, sei qua con noi appunto per chiacchierare un pochino e raccontarci di questo nuovo lavoro. Benvenuto a Radio Città Fujiko. Grazie mille per l'ospitalità. Grazie a te. Allora, sono già usciti tre singoli di questo che anticipano un pochino quest'album, che se non sbagliamo, se non abbiamo informazioni errate, sarà diviso in due parti, quindi una parte che uscirà a maggio e una seconda che uscirà in autunno, giusto? Avete le informazioni corrette. Ok, il disco come si chiama? Diccelo tu. Il disco si chiama Dove sei? Senza punti interrogativi, né esclamativi, senza punti di congiunzione. Dove sei? Ma come mai dove sei? Cioè, perché così uno può interpretarlo, può mettere dove sei? Esatto, così, ma a me è sempre piaciuto lasciare un po' la palla poi all'ascoltatore, per cui poi ognuno fa come gli pare. Giustamente. Chi lo chiede, chi lo stabilisce, chi lo sa. Ma quest'album, appunto, hai detto, è diviso in due parti, no? Quindi una parte che uscirà adesso e una seconda. Come mai questa scelta di dividere un lavoro e farlo uscire in due periodi così distanziati? E se stai lavorando a quest'album, è già tutto pronto? Insomma, raccontaci un po'. Allora, l'album sì, è tutto pronto. E l'idea in realtà è, sai, di solito quando si lavora una produzione di un disco si lavora con un sacco di materiale, poi durante la lavorazione capita che qualcosa passa in secondo piano, si perde, piace di meno, cambia significato, perde valore, no? Per cui insomma di solito si lavora in eccesso per poi arrivare a un corpus di canzoni che abbia un senso inserire in un lavoro complessivo che si chiama disco. Questa volta noi abbiamo lavorato in eccesso e quando siamo arrivati alla fine del lavoro ci siamo accorti che in realtà non c'era niente che era rimasto indietro e che ci piaceva più o meno tutto. E allora, per cercare di non dare troppo fastidio all'ascoltatore, per mettere 16 brani in un disco solo sarebbe stato forse un po' antipatico, abbiamo stabilito di lavorare un po' come si faceva qualche anno fa, neanche troppi anni fa, su un doppio disco, però per alleggerire, appunto, come ti dicevo prima, il mappazzone l'abbiamo suddiviso in due parti e abbiamo pensato che poteva essere interessante lavorare su due uscite differenti, anche perché poi i brani insomma hanno un senso e un filo rosso in qualche modo diverso, anche se poi fanno parte della stessa famiglia. E niente, abbiamo deciso di farli uscire in questi momenti separati, per cui lavoriamo su un doppio disco che in realtà poi alla fine è uno solo, ma che arriva in due momenti diversi. Quindi non è stato lavorato in due momenti diversi, cioè avete lavorato assieme tutti i brani e poi in un secondo momento avete deciso di dividerlo. Esattamente, sì, abbiamo fatto proprio questo procedimento qua, abbiamo lavorato insieme tutti i brani, ci sono piaciuti tutti e poi nella narrazione del disco ci siamo anche resi conto che effettivamente aveva un valore in più, gli avrebbe dato un valore in più separarli un po', dargli un po' di aria, ecco. A proposito di narrazione, i temi che possiamo trovare in questa parte 1 e poi nella parte 2 di Dove sei, quali sono? Cioè, che narrazione è? Una narrazione per episodi, divisa in due parti appunto, ma perché? Ma in realtà, guarda, sono tutte un po' delle grandi domande. Diciamo che il titolo è un po' il centro della narrazione, da cui partono poi questi fili che sono tutti collegati tra di loro, che sono un po' di domande relative al momento di passaggio, no? In questo caso di chi scrive, cioè mie, di base, che è quello un po' di quando si diventa adulti, o almeno si crede di diventare adulti, ecco, per cui uno comincia a tirare un po' le somme di quello che ha ottenuto, non ha ottenuto, oppure sai, quando da bambino uno pensava che c'aveva degli obiettivi da conquistare, cominciare a capire se questo diventare adulti ci ha permesso di conquistare quegli obiettivi o meno. E per cui sono delle domande, in realtà sono tutte grandi domande che ruotano intorno a questo momento di passaggio qua. A proposito quindi di questo passaggio, appunto, c'è anche un brano, appunto uno di quelli che hanno anticipato l'uscita del disco, Il Sorpasso, che parla anche di differenze tra generazioni, tra vecchie e nuove generazioni, e la problematizzi un po', no, all'interno del brano, questa differenza, questo confronto, addirittura con una frase che è: siete pronti al bicchiere di cicuta. Quindi è un passaggio doloroso, è un passaggio difficile. Guarda, io ho avuto un momento di grande gioia l'anno scorso, gli anni passati, quando mi sono accorto che insomma in realtà le nuove generazioni stavano venendo su in maniera piuttosto formata, bella, bella concreta, insomma sarà un po' questa esplosione del movimento ecologista che faceva capo a Greta, insomma rivedere in piazza i giovani, le nuove generazioni, mi aveva dato una bella botta d'entusiasmo, perché mi sono cominciato un po' a interrogare su che cavolo stava succedendo alle nuove generazioni rispetto magari alle nostre, e mi sono accorto pure che insomma tutto sommato una serie di questioni che chiamiamole istituzioni per capirci, no, continuano a portarci come problematiche, come annosi problemi da risolvere, differenze, separazioni, che di questi tempi insomma poi sono in maniera un po' diversa ovviamente. Per le nuove generazioni, per chi comincia a crescere in questa società globale e globalizzata, cominciano a essere un po', insomma, questioni belle metabolizzate, che non sono più così scandalose come magari erano già per noi, che siamo cresciuti e formati in una società del tutto diversa. E questa roba mi ha dato un bel entusiasmo, per cui sì, in questa canzone qua ci metto un po' davanti al fatto che magari tutta una serie di questioni che ancora anche noi, oltre alle istituzioni, viviamo come difficoltose, sono già belle che metabolizzate, elaborate e trasformate magari in risorsa da chi viene dopo di noi. Perfetto, allora direi che, visto che abbiamo parlato di questo brano, adesso lo ascoltiamo e poi torniamo da te. Dici che qui non posso stare, sì, ma dove siamo? Tu prendici sul serio, noi prendiamoci per mano, e ti fai incazzare se non ce ne andiamo. Ti senti preso per il culo, più educato, preso all'amo. Sale la paura perché vedi che cresciamo, parli di progresso mentre noi evolviamo, ti metti l'armatura mentre noi cantiamo, hai capito che lo scontro è all'orizzonte, questa volta noi vinciamo. Resistere, combattere, nonostante l'essere, essere, per questo battersi, allora forse esistere, vincere come sistema da adesso in poi, spingere il cerchio a stringersi sempre di più intorno a voi, pronti allo sciottino di cicuta, siete quello che rimane di una classe decaduta, siete pronti all'estremo sacrificio. Per voi non c'è più spazio nell'evoluzione della specie. È così che camminiamo, è così che procediamo. E mentre ci moltiplichiamo, è così che poi arriviamo. È così che camminiamo, è così che procediamo. E siamo già arrivati, che facciamo? Bussiamo. Identificate vie di fuga, preparate nei dettagli la difesa. Chiusi a guscio come tartaruga, quanto limone nella lista della spesa. E giù dal basso, nessuna resa, ad ogni passo una nuova luce accesa. Ti vedo scosso, ma che sorpresa a questo passo, perché siamo tanti, anzi siamo una distesa. A voi la decadenza, a noi la trascendenza, come rituali tribali di una danza. Misere vite tra i grugniti d'abbondanza. Il mondo va di botto, porta il ritmo del prodotto. Interno lordo, esterno sordo, tortura a confronto, successo balordo. Originale come il peccato, cappallo non domato. Chi ha avuto avuto, chi ha dato ha dato. È così che camminiamo, è così che procediamo. E mentre ci moltiplichiamo, è così che poi arriviamo. È così che camminiamo, è così che procediamo. E siamo già arrivati, che facciamo? Bussiamo. Identificate vie di fuga, e intanto cresce l'impotenza. Chiuso nella stanza, preparate nei dettagli la difesa. Le grandi abbuffate per lo show di tendenza. Chiusi a guscio come tartaruga, sale la tensione quando finisce la ragione. Quanto limone nella lista della spesa. Odio su te, l'amore in cancrena. E giù dal basso, nessuna resa, ad ogni passo una nuova luce accesa. Ti vedo scosso, ma che sorpresa a questo passo, perché siamo tanti, anzi siamo una distesa. Ritornati dopo il sorpasso, direi che questo è un pezzo anche un po' di critica e di speranza, come ci hai raccontato tu. Guardando invece avanti, guardando al futuro e contestualizzandolo anche in questo momento in cui la musica sta vivendo sicuramente un cambiamento, tu come lo vedi e come vedi la tua musica nei prossimi mesi, nel prossimo futuro? Guarda, dunque, io sono tra quelli che in questo momento è, diciamo, faccio parte della schiera di quelli un po' preoccupati, nel senso che mi rendo conto che, insomma, noi ci occupiamo sì di scrivere dischi, ma poi in realtà il mercato, chiamiamolo così, diciamo, quello che ci tiene in piedi è l'attività live, no? E noi ci occupiamo, oltre che di scrittura e di musica, ci occupiamo di aggregazione sociale in qualche modo. Per cui in un momento in cui da un punto di vista sanitario l'aggregazione sociale diventa problematica, noi siamo un po', giustamente, anche il nemico, per cui sono un po' preoccupato su quello che succederà. Credo che ci vorrà un po' di tempo per ritornare a metterci in moto rispetto a una, insomma, qualsiasi tipo di normalità, rispetto a quello che conosciamo come normalità. Direi che al di là dei piagnistei, insomma, che in questa fase qua sono stati belli belli presenti, quello che mi preoccupa di più in questo momento è l'assenza di un confronto da parte delle parti in causa, da parte degli artisti, da parte dei promoter, da parte dei locali, da parte di tutte le parti comprese, insomma, piuttosto che rivolgersi all'assistenzialismo statale, che mi sembra una roba abbiamo già imparato a fare a meno di quella roba là, non è che è una novità che si scordano di noi, eccetera. Mi manca un po' la presa di coscienza che siamo davanti a un momento di cambiamento importante, in cui noi siamo i primi a doverci mettere in discussione e a confrontarci un attimo su quello che sarà, su eventuali nuove forme, rielaborazione delle forme, su come si reinterpreta l'attività live, la performance, lo stare insieme in un momento così. Giustamente, ma a proposito dei concerti drive-in, no, che sono stati citati in questo periodo, tu cosa ne pensi? Cioè di questa mancanza anche di contatto, ma di un'alternativa, no? Del cercare comunque di portare la musica live in maniere alternative. Guarda, ci pensavo proprio l'altro giorno, non credo che sia una strada percorribile, proprio perché il concerto è fatto di compresenza, di ascolto, di stare insieme, di sudore, di odore, di vita, di scambio, ecco, non credo che sia possibile immaginare quel tipo di forma là, per cui, insomma, diciamo che un po' mi fa sorridere, però dall'altra parte penso che sia, appunto, sganciandosi dal piagnisteo, un primo tentativo di buttare un'idea in mezzo, poi percorribile, difficile dal mio punto di vista, però se non altro c'è un'attività propositiva, attiva rispetto alla fase. Buttiamo delle idee in mezzo, cominciamo a scartarle, cominciamo a capire cosa è percorribile o no. Questa del drive-in secondo me non è percorribile, però se non altro è un'idea. Iniziamo a parlarne, a dici? Eh sì. Giustamente. Beh, allora torniamo alla tua musica adesso, facciamo un passo indietro e ti faccio una domanda generalissima, quella che in tutte le interviste ti sicuramente ti fanno. Cosa ha influenzato la tua musica? Che tipo, se dovessi decidere un'etichetta, anche se è sempre molto brutto per il tuo genere musicale, che etichetta gli daresti? Come chiameresti la tua musica? È molto difficile perché, insomma, significherebbe assumersi delle responsabilità e me ne guardo bene, però... Giustamente, a proposito di crescere, no? Esatto. Diciamo che io sono molto affascinato, negli ultimi anni ho ascoltato moltissimo tutta questa onda dello spoken word che sta uscendo fuori, ovviamente soprattutto da fuori l'Italia, Inghilterra, Stati Uniti in primis, per cui diciamo che se c'è qualcosa che ha influenzato il mio lavoro, soprattutto quello della scrittura, per quanto riguarda questo disco qua, c'è quel mondo di riferimento lì, per cui Ghost Poet, Kate Tempest, questi artisti qua. E musicalmente ho cercato di fare un po' lo stesso percorso con i musicisti, che però ovviamente ognuno viene da punti diversi, per cui poi il bello è anche mescolare le esperienze diverse e tirare fuori forse qualcosa di diverso, e chi lo sa se ce l'abbiamo fatta. Beh, sicuramente. Beh, allora per chiudere questa chiacchierata io direi che ci possiamo ascoltare il terzo dei singoli che hanno anticipato l'uscita dell'album, che ricordiamo è prevista per l'8 maggio, quindi per insomma manca pochissimo. L'album si chiamerà Dove sei, senza punteggiatura, quindi non sappiamo se è punto interrogativo o esclamativo. E io chiuderei questa chiacchierata con il fraintendimento di John Cage. Ti va di raccontarci qualcosa di questo brano o introdurlo tu? Guarda, dunque, raccontare qualcosa del brano è molto difficile perché, appunto, a proposito delle domande, è una domanda continua questo brano qua, e in realtà non avendo trovato una risposta alla fine ci ho fatto una canzone, per cui mi piace molto che chi l'ascolta poi entri in contatto con queste domande qua senza, appunto, per forza trovare risposte. È forse un brano, uno di quei brani che amo di più di tutto l'album, perché credo di essere riuscito a costruire un'atmosfera relativa a queste domande qua che si infrangono un po' contro la riva quotidiana. Perfetto, allora io ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata e ascoltiamo questo brano e ci sentiamo presto per chiacchierare invece dell'uscita del tuo album. A presto, grazie mille. Grazie a te. Dove sei? Ti sei accorta che non hai più 20 anni e che non fai più le ore piccole, che hai perso tempo a dirti, a darmi il senso di tutto quello che non sei, di tutto quello che non vuoi, il senso di tutto quello che cambia, di quello che non si fa quando si sbaglia e come si pone rimedio, come si raggiunge il meglio. E secondo te sono felice? Ti ho chiesto una volta e tu per niente felice di dirmelo, per niente coinvolta. Hai detto guarda che tu sei felice solo quando decidi di esserlo, e allora ho detto la felicità non è uno stato, è un paesino. E allora tu, senza guardarmi, hai detto tu non sei felice, tu sei un cretino. Vorrei ti addormentassi col rumore di un gran premio in sottofondo, mentre intorno è tutto zitto, capiresti un po' di più mio padre e i pomeriggi di riposo. Ma adesso anche i gran premi si girano di notte, non ci crederesti mai, e non ci sono più le lotte tra i piloti e gli operai. Guardaci, due fermo immagine, e adesso che siamo sotto l'ombra di un vulcano, vogliamo esplodere anche noi. Fermo immagine, e adesso che siamo sotto l'ombra di un vulcano possiamo esplodere anche noi. Dove dove sei. Hai capito che non riguarda solo noi. Ti conforti nell'idea che anche gli altri stiano riflettendo su cosa fare. Allora forse è generazionale, forse è un passaggio, è un momento dell'età. Ma ce la fai, la sai reggere stavolta. Ma te la immagini la botta e ti impressiona più resistere o mollare. Più la trasformazione o la conferma e ti spaventa. Più il silenzio, più la merda. Più il concesso o il fine mese. E le due sono necessità oppure ancora una volta stupide pretese. Secondo te sono felice? Ti ho chiesto una volta e tu per niente felice di dirmelo, per niente coinvolta. Hai detto guarda che tu sei felice solo quando decidi di esserlo. E allora ho detto la felicità non è uno stato, è un paesino. E di nuovo senza guardarmi hai detto tu non sei felice, tu sei un cretino. Poi ti sei fatta seria e non mi ricordo se l'hai detto tu oppure era nell'aria. Guarda che i bivi si trasformano in correnti quando si segue solo una strada. E spesso una è male illuminata, l'altra non è segnalata. E gli andamenti si trasformano in tendenze. Tu ti preoccupi di questo rapporto come fosse un chilo di fumo che nascondi nello zaino all'aeroporto. Il compito, il rispetto, la responsabilità. Sei innocuo e non ti senti mai in pericolo. Ma allora quando cazzo la trovi la felicità? Arte pubblica, processi rivoluzionari, inneschi, detonatori. Ce li hai altri due paroloni. La riconfigurazione del sensibile, il rapporto tra estetica, politica, musica, la funzione sociale delle arti. E come si dice, stage o stage, l'eterno dubbio, rimani o parti, il fraintendimento di John Cage. Vorrei che disegnassi con un giro delle mani un mappamondo, mentre intorno è tutto scritto, punteresti un dito a caso e mi diresti ti ci porto. Ma adesso anche viaggiare non è più come una volta, non ci crederesti mai. E non ci sono più le rotte sconosciute, quelle che piacciono a noi. Guardaci, due fermo immagine. E adesso che siamo sotto l'ombra di un vulcano, vogliamo esplodere anche noi.